voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Maurizio Marchesini, da Bologna, le macchine per confezionare i farmaci in tutto il mondo. Di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa che vi raccontiamo oggi viene dal distretto bolognese delle macchine per il confezionamento. È quella di Marchesini Group, attivo nel settore del packaging farmaceutico, in un territorio in cui si progettano le macchine e i robot che confezionano quasi tutti i farmaci che si vendono in Italia e nel mondo. Marchesini Group fattura più di 200 milioni di euro ed è presente in oltre 100 paesi. L'amministratore delegato è Maurizio Marchesini, che ci racconta una storia iniziata in un garage esattamente 40 anni fa. La storia della nascita della nostra impresa coincide con la storia di mio padre. Mio padre, che è il fondatore, Massimo Marchesini, ha avuto una storia tipica del mondo, del nostro mondo bolognese, delle macchine di confezionamento. Lui è uscito nel primo dopoguerra da un famoso istituto tecnico Aldini Valeriani e ha cominciato la propria carriera con un signore che usciva, un progettista, un certo signor Martelli, che usciva dalla ditta matrice di tutte queste formazioni. Ha fatto tutta la sua carriera in questa azienda con questo signore, che era uno di questi mitici ricostruttori del dopoguerra. Poi negli anni 70 le cose erano un po' cambiate, questo signore purtroppo era morto, erano subentrati i figli e le visioni non erano più le stesse, e in più, gli anni 70 erano anche anni di sindacalismo molto difficile, e mio padre a questo punto decise di mettersi in proprio nel garage di casa, con una dichiarazione assolutamente mendace, perché disse 5, massimo 10 dipendenti. Oggi siamo circa un migliaio, e quindi... Oggi l'azienda è un gruppo gestito dalla famiglia, dove Massimo Marchesini è ancora presente. Ma lui fece l'affermazione che invece questa l'ha mantenuta, e ha sempre detto: ci divertiremo molto a fare questo mestiere. Ci stiamo ancora divertendo molto. Mio padre è molto anziano, naturalmente, ha più di 80 anni, però continua a venire tutti i giorni in fabbrica, ha uno splendido rapporto con i giovani e ci sta aiutando molto a mantenere intatti i nostri valori iniziali. Per lo sviluppo dell'azienda, negli anni successivi, sono state determinanti due scelte. Guardare da subito ai mercati internazionali, da dove oggi arriva l'85% del fatturato, e seguire la strada delle acquisizioni. Dopo che mio padre ha fondato, e ricordiamoci, io lo dico sempre, che la prima macchina l'ha venduta in Italia, ma la seconda già andava all'estero. Discriminante non da poco, perché comunque noi continuiamo a fare in questo momento tra l'85 e l'87% di esportazione. Dopo questa prima fase di, come posso dire, pionieristica, d'inizio, dove tutto poteva cambiare in un attimo, la vera svolta, secondo me, sarà andata all'inizio delle acquisizioni. Le acquisizioni sono state una chiave di crescita molto veloce. Nei comparti tecnologici, dove il personale è molto scarso, molto difficile da trovare, comunque le crescite non possono essere molto veloci. E l'unico modo di crescere veramente in fretta è quello di fare acquisizioni. Quartier generale tutt'oggi basato a Pianoro, Bologna, Marchesini Group è articolato in 14 divisioni produttive, 7 aziende acquisite e un'azienda partner, con produzione interamente in Italia. Anche le acquisizioni che abbiamo fatto sono acquisizioni per il momento tutte italiane, dal punto di vista produttivo, ma abbiamo anche in queste acquisizioni lasciato le aziende lì dove erano, per cui ne abbiamo in Lombardia, ne abbiamo in Toscana, ne abbiamo anche in Lazio, e abbiamo voluto lasciarle lì perché il legame è molto importante, il legame col territorio, è un legame fortissimo con le persone, naturalmente, e con questo strato importantissimo di subfornitura, che è la vera chiave che dà, credo, al prodotto italiano quella flessibilità, quella capacità produttiva che altre realtà, anche europee, non hanno. Il territorio è stato uno degli elementi che hanno determinato il successo dell'impresa, con un modello di distretto che resta un punto di forza anche per il paese e un elemento di riflessione per le piccole imprese italiane. Noi viviamo in un territorio dove c'è un assieme di subfornitura, ma è quasi troppo poco definire subfornitura, veramente un distretto molto importante. Abbiamo fatto tante acquisizioni in questi anni e abbiamo visto che questo modello del distretto è esportabile, perlomeno nelle realtà italiane. E, guardi, noi siamo 1000 persone, abbiamo fatto un calcolo che con la subfornitura ne avremo altre 1500. Questo le dà le dimensioni della capacità, della flessibilità che ci può dare una struttura, un substrato di questo genere. È un punto di forza molto importante per l'Italia. Delle relazioni sul territorio e della crescita delle imprese, Maurizio Marchesini si è occupato anche attraverso cariche istituzionali. Dal 2012 è presidente di Confindustria Emilia-Romagna. Bisogna ragionare sulla crescita della piccola impresa in termini un po' meno retorici. Lo dico anche con un certo senso di autocritica. Nel senso che stiamo dicendo anche alle piccole, piccolissime imprese dovete andare all'estero. All'estero molto spesso ci siete già attraverso i vostri capifila. Probabilmente dovremmo in qualche modo pensare a un'integrazione maggiore, a pensare anche a non solo alla flessibilità, ma anche a operare veramente con questa nostra subfornitura in un rapporto diverso, che non sia più quello di cliente e fornitore, ma quello di vera partnership. Cioè, il mio è un invito a guardare molto anche all'efficienza del proprio capofila, perché questo è il modo più diretto per arrivare anche sui mercati esteri, che sono i mercati che in questo momento stanno in qualche modo mantenendo la nostra economia attiva. Il gruppo Marchesini è oggi una realtà importante del territorio, con numeri in crescita nel periodo della crisi, sia nel fatturato che nella raccolta ordini. Dunque, noi facciamo fatturato superiore ai 200 milioni di euro, 210 milioni circa di euro, i budget di quest'anno sono ancora in crescita. Ah, by the way, il periodo della grande crisi per noi è stato un periodo di crescita di fatturato tutti gli anni, insomma, ma non siamo delle mosche bianche. E così è stato per il grande settore delle macchine automatiche italiano, 5,5 miliardi di fatturato all'anno, quindi è un settore importante, insomma, con una bilancia commerciale estremamente in attivo. Esportazioni, principalmente in Europa e negli Stati Uniti, con 11 divisioni nei mercati di riferimento: Gran Bretagna, Stati Uniti, Scandinavia, Svizzera, Germania, Francia, Benelux, Spagna, India, Medio Oriente e Cina, ed una rete di 20 agenzie. Negli ultimi 12 anni il personale è cresciuto del 160%. Molte delle nuove assunzioni provengono dalle università e dalle scuole del territorio, con qualche talento estero. Facciamo macchine per il confezionamento soprattutto per industrie farmaceutiche e cosmetiche. E il nostro cliente tipico è proprio la Big Pharma, la multinazionale farmaceutica o la grande società cosmetica. E questa tipologia di aziende richiede di avere la stessa qualità, non solo del prodotto, ma anche di assistenza praticamente dovunque nel mondo. E questa è stata la chiave per cui siamo stati in qualche modo forzati ad avere anche sedi estere, per poter dare intanto questo appoggio minimo ai nostri clienti. Abbiamo cominciato nei primi anni utilizzando degli agenti e poi ci siamo resi conto di aver bisogno di una rete commerciale molto specializzata e molto fidelizzata, e quindi in molti paesi importanti abbiamo costituito delle nostre sedi estere. Le acquisizioni e gli accordi di partnership con aziende complementari del settore sono state effettuate con l'obiettivo di poter attuare l'intero processo di confezionamento per l'industria farmaceutica e cosmetica. I clienti del gruppo sono principalmente aziende del settore farmaceutico, sia le grandi multinazionali che le piccole e medie imprese del comparto dei generici o terziste, e per il 15% le aziende cosmetiche, sempre in relazione al packaging. Con la caratteristica di un'azienda familiare che diventa un gruppo multinazionale e deve mettere assieme dimensioni e prodotti legati alle specifiche esigenze del cliente. È il cruccio della mia vita, essere industriale mantenendosi artigiano o essere artigiano facendo l'industriale, insomma. Perché noi proprio questo facciamo, vogliamo ovviamente avere una dimensione, una scala sufficiente per lavorare sui mercati internazionali, e ne abbiamo assolutamente bisogno, e anche per questo abbiamo bisogno ancora di crescere. Però vogliamo mantenere una cura, un'attenzione maniacale verso le esigenze del cliente e in questo senso mantenersi artigiani. È una sfida molto difficile, stiamo cercando di mantenere i valori iniziali, i valori di solidarietà, i valori di appartenenza, i valori della capacità di saper lavorare. È chiaro che crescendo di dimensione, crescendo anche geograficamente, non è semplice. Quindi stiamo anche cercando di ingegnerizzare un po' questi concetti, cioè di far passare il messaggio che noi siamo sempre questi e così dobbiamo mantenerci, in maniera ovviamente industriale. In azienda è presente tutta la famiglia. C'è mio fratello che grazie al cielo, grazie al Signore, è più giovane di me e quindi e quindi ha anche ancora molti più anni di me da lavorare. C'è mia figlia, c'è mia moglie, ma ci sono anche e soprattutto tanti manager molto capaci, molto bravi e con un grande senso di appartenenza, perché c'è una cosa fondamentale che mio padre mi ha sempre insegnato, che l'azienda non è solo nostra, l'azienda è anche di tutti quelli che ci lavorano. E noi questo in qualche modo lo teniamo sempre ben presente. Alla ricerca e all'innovazione sono destinate da sempre attenzione e risorse, ma lo sviluppo, secondo Maurizio Marchesini, deve essere per le aziende un concetto più ampio. E dall'innovazione sono legati anche alcuni progetti per il futuro, insieme agli obiettivi di crescita dell'azienda. Alcuni sono progetti tecnologici che stiamo sviluppando nelle segrete stanze dei nostri centri di ricerca, quindi chiaramente non li posso divulgare. Io sono un appassionatissimo di meccanica, ma mi sono molto convertito all'elettronica, alle possibilità infinite che l'elettronica, direi che l'informatica ha sulla meccanica, delle possibilità di sviluppo inimmaginabili. La cosa bella è che ha delle possibilità di sviluppo che io ancora oggi non riesco a immaginare, che nessuno ancora riesce a immaginare, ma in futuro le potremo fare se riusciamo a fare le basi giuste. E questa è la parte, diciamo, tecnica. Come azienda mi piacerebbe crescere ancora. Ci sono mercati su cui sto cercando di avere più presa, penso di riuscire a farle entro l'anno. Sono in maniera manifesta i mercati dell'est europeo, che secondo me hanno una potenzialità di crescita nei prossimi anni fortissima. Ci sono anche eventualmente delle acquisizioni da poter fare, insomma. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.